Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Bentornati carissimi ascoltatori a Il bene di tutti, parliamone. Sono Andrea Cantone e anche questa settimana vi do il benvenuto alla rubrica curata dall'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Scopo di questi minuti è affrontare con lucidità le grosse questioni che pesano sui tavoli dell'economia, della politica, della vita sociale. Effettueremo la nostra analisi alla luce degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, che non parla solo ai cattolici, ma, come ricordano gli incipit delle encicliche, è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. Se parliamo di lavoro, è impossibile non citare il sindacato. Eppure da anni questo organismo subisce continuamente critiche e attacchi da più fronti. Uno dei traumi più grossi, probabilmente il trauma più grosso, è la perdita dell'unità sindacale tra CGIL e CISL e UIL, dopo la stagione di relativa concordia all'inizio degli anni 2000 per le questioni dell'articolo 18. Ma soprattutto nell'ultimo periodo, a gran parte della popolazione sembra che il sindacato tuteli solo chi è già tutelato, chi ha già un contratto a tempo indeterminato, per esempio, mentre i giovani, sempre più precari, si trovano e si sentono abbandonati a loro stessi. Il grande pontefice Giovanni Paolo II è stato nella storia un papa legato a doppio filo con il mondo del sindacato, sia per il suo passato di lavoratore in gioventù durante la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto per il sostegno concreto dato a Solidarnosc di Lech Walesa, che è riuscita in qualche modo a mettere paura al gigante sovietico. In un brano della Labor im Exercens del 1981 parla di sindacato. Ne parlerà successivamente anche Benedetto XVI nella Caritas in Veritate. La dottrina sociale della Chiesa riconosce un ruolo importante al sindacato nell'organizzazione delle relazioni industriali. Fra pochissimo, ad accompagnarci in questa puntata, sarà con noi Adriano Pozzato, segretario provinciale padovano della CISL. Intanto però ascoltiamo il brano tratto dalla Labor im Exercens di Giovanni Paolo II. Dalla Labor im Exercens di Giovanni Paolo II. Sulla base di tutti questi diritti, insieme con la necessità di assicurarli da parte degli stessi lavoratori, ne sorge ancora un altro, vale a dire il diritto di associarsi, cioè di formare associazioni o unioni che abbiano come scopo la difesa degli interessi vitali degli uomini impiegati nelle varie professioni. Queste unioni hanno il nome di sindacati. Gli interessi vitali degli uomini del lavoro sono fino ad un certo punto comuni per tutti. Nello stesso tempo, però, ogni tipo di lavoro, ogni professione, possiede una propria specificità che in queste organizzazioni dovrebbe trovare il suo proprio riflesso particolare. La dottrina sociale cattolica non ritiene che i sindacati costituiscano solamente il riflesso della struttura di classe della società e che siano l'esponente della lotta di classe che inevitabilmente governa la vita sociale. Il lavoro ha come sua caratteristica che, prima di tutto, esso unisce gli uomini ed in ciò consiste la sua forza sociale, la forza di costruire una comunità. Bentornati carissimi ascoltatori all'ottava puntata del Bene di Tutti, parliamone. Siamo in collegamento telefonico con Adriano Pozzato, segretario provinciale padovano della CISL. Grazie per essere con noi, Pozzato. Grazie a voi. Cosa dicono le parole del Papa che abbiamo appena ascoltato, di questo grande pontefice, in particolare a un sindacalista come lei? Ma guardi, innanzitutto dico che Giovanni Paolo II, usando una sua frase e adattandola, ha spalancato le porte del sindacato, cioè è stato un papa che ha avuto così l'ardire di scrivere di sindacato ma anche di farlo sentire parte della comunità con i fatti che sono accaduti dal suo paese di origine. E il sindacato è quella struttura che mette insieme i lavoratori. Il lavoro è soprattutto la parte principale di ogni persona, di ogni giornata. È una cosa molto sensata quella di far riflettere sul fatto che finché si lavora si possa edificare l'uomo e la società appunto in maniera associata, organizzata, quindi l'uno che si mette insieme all'altro, che si fa comunità e che si lavora insieme per migliorare le condizioni di lavoro, per tutelare i diritti, per far sì che appunto il lavoro sia quella parte della quotidianità che edifica l'uomo. E sottolineando questo, io mi fa pensare che di questi tempi il senso dell'associazionismo è da coltivare con molta attenzione, perché il rischio di un individualismo abbastanza diffuso è sempre presente e io ritengo che vada combattuto, perché porta in sé il germe anche un po', diciamo, alla fine anche della solitudine, ma soprattutto dell'interesse individuale spinto. Invece il sindacato, che prendendo il termine etimologico greco syndike, significa agire insieme per la giustizia, allora in questo cammino verso la giustizia il cammino ha senso se è insieme. Ci fermiamo un secondo, Pozzato, per una breve pausa e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone, rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori all'ottava puntata del Bene di Tutti, parliamone. Siamo in collegamento telefonico con Adriano Pozzato, segretario provinciale della CISL. Pozzato, le critiche ultimamente dipingono il sindacato come vittima di una profonda crisi strutturale. Cosa c'è di vero? Ma che è facile parlare di sindacato, è facile parlare del sindacato. E se si parla al sindacato si può dire qualsiasi cosa. E questa è la questione interessante. E il sindacato non si rivolta verso le critiche che vengono fatte. E il sindacato è fatto di gente comune e quindi è chiaro che è esposto a critiche, non ha potere come altri soggetti. Il potere deriva dal fatto di essere insieme e di cercare di portare avanti delle istanze e delle politiche a tutela delle persone normali sostanzialmente. Quindi la crisi per certi versi direi che più del sindacato è una crisi di sistemi, dei sistemi associativi, quindi la cultura del mettersi assieme e quindi dell'agire insieme, ecco, quindi lo vedo nella politica, lo vedo in tantissime altre cose. E da questo punto di vista io direi che quello che va fatto è quello di respingere le critiche con questa affermazione, cioè chi critica sappia che le porte sono aperte e arrivino nel sindacato, si impegnino, aiutino a cambiarlo, perché sempre bisogna migliorare le cose, quindi anche le nostre organizzazioni, però dia del suo con responsabilità e impegno e così miglioriamo non solo il sindacato, ma io credo anche la società, ma poi anche i contesti di lavoro, di vita, gli enti e anche tutto ciò che può essere poi di produzione di beni e di servizi. Allora la qualificazione della produzione viene fatta se tutti coloro che hanno qualcosa da dire si impegnano, ma nel senso di migliorare le cose. Poi guardi, ci sono tanti che criticano il sindacato, perché? Perché il sindacato, dire il vero, rompe le scatole, secca un po' l'anima, uso questi termini qui, cioè è insidioso sulle questioni, e noi però siamo del parere che se reclamiamo trasparenza, se vogliamo vedere le cose chiare, se vogliamo sapere che obiettivi strategici un'azienda, un ente ha in mente, e se vogliamo sapere dal governo se le politiche che sta facendo alla fine appesantiscono la pressione fiscale sui lavoratori, sui cittadini, oppure sul potere d'acquisto e i salari. Sono cose che ci sembrano molto normali di poter pretendere, e laddove non si vuole fare questo è chiaro che richiamo quel che anche a volte è un po' di fastidio, per cui c'è chi ci critica in questo senso. Quindi le critiche io le respingo, e secondo me chi critica apertamente dica perché, e poi si impegni nelle strutture, visto che il sindacato siamo noi, perché guardi, dappertutto c'è bisogno di sindacato, anche l'alta dirigenza ha il sindacato, la politica non ha bisogno del sindacato perché si difende da sé e ha un potere immane. Abbiamo fatto una lotta sui costi esagerati della politica molto forte, che per certi versi non ci ha creato tante amicizie, però ecco, tutti quanti hanno il loro sindacato. Confindustria è il sindacato degli imprenditori industriali, e CNA UPA è il sindacato degli artigiani, e quindi tutti hanno un sindacato. Allora si pensi al sindacato come quell'organizzazione che ci mette assieme per migliorare le cose. Lei ha detto che la crisi è strutturale e respinge comunque le critiche più forti al sindacato, ma il sindacato può rivedere in qualche modo se stesso, può migliorare? Sicuramente può migliorare, perché tutto può migliorare, i tempi cambiano, le condizioni cambiano, le persone e le esigenze cambiano, e siamo peraltro all'interno di un processo, diciamo, di globalizzazione internazionale che, anche se non vogliamo, impone il cambiamento. Siamo dentro un processo di cambiamento strutturale della composizione delle nostre comunità, quindi significa nei luoghi di vita, nei luoghi di lavoro, e necessariamente dobbiamo cambiare. Siamo in un cammino in cambiamento sempre, quindi da questo punto di vista bisogna stare anche sereni, cioè è così, è l'evoluzione della storia, noi dobbiamo traguardare il livello eccezionale di civiltà e di progresso che abbiamo raggiunto, e quindi significa che dobbiamo anche inventare qualcosa. Io penso che questo sia il senso di stare in queste organizzazioni e di guardare un po' avanti. Introducendo questa puntata ho fatto notare che molti giovani, a torto o a ragione, si sentono un po' abbandonati dal sindacato, perché sembra in qualche maniera tutelare solo chi è già tutelato, solo chi ha tempo indeterminato, nella difesa di grossi contratti collettivi. Sì. Cosa fa il sindacato per i precari, per quelli non tutelati, o cosa potrebbe fare di più? Allora qui la cosa è abbastanza complessa, quindi dico due o tre cose anche apparentemente diverse, ma si legano. Allora, da una parte noi abbiamo una situazione che è cambiata strutturalmente, cioè i nostri tempi vedono i ragazzi entrare nel lavoro mediamente dopo il diploma o dopo l'università, e quindi non entrando come una generazione due fa, a 14, 15, 16 anni, è chiaro che entrano non più giovanissimi, e quindi c'è una parte di giovani che non c'è nella struttura sindacale. Secondo, arrivano con un bagaglio culturale e anche esigenze molto differenti, che non sempre il sistema produttivo è in grado di offrire in coerenza con la preparazione o le attese che questi hanno. Secondo punto, la frammentazione del mondo del lavoro è tale per cui si è arrivati a una moltiplicazione di tipologie contrattuali. Ma la moltiplicazione di tipologie contrattuali è arrivata anche per contenere la grande evasione fiscale e contributiva insita nel lavoro nero, che si annidava in tantissime tipologie che non potevano essere comprese nel classico contratto di rapporto a tempo indeterminato. Quella era l'iniziale, diciamo, obiettivo, perché i livelli di evasione erano incredibilmente alti. Ora abbiamo un elevato numero di tipologie contrattuali. Questa frammentazione a noi della CISL ci porta a dire da alcuni anni che per noi la pista da battere è quella del far costare di più il lavoro flessibile. Tutti quei contratti diversi dal contratto indeterminato che costi di più, in maniera che se c'è l'azienda che vuole un tipo di lavoro diverso da quello indeterminato paga di più, e allora le cose si rimetterebbero un po' in riga, perché guardi, sui contratti quelli delle agenzie di somministrazione lavoro hanno permesso di regolarizzare tantissime persone, applicare dei contratti, però quel contratto, quando un'azienda chiama il lavoratore da un'agenzia appunto di somministrazione lavoro, quelle che una volta si dicevano agenzie interinali, quel contratto costa di più all'azienda. Quindi da una parte un maggior costo, dall'altra parte su alcuni contratti bisogna sicuramente cambiare registro, perché partite IVA, diciamoci la verità, ci sono tantissime partite IVA che sono prese, sono dipendenti allo stato puro e usano gli associati in partecipazione. Ecco, queste sono due tipologie, il Coco Pro ad esempio un'altra tipologia, sono alcune tipologie che non sempre sono utilizzate in maniera corretta. Qui c'è un altro problema, poi chiudo, non è la questione delle diverse tipologie contrattuali, ma è anche la possibilità di poterle utilizzare in maniera difforme, e anche qua reclama in causa i controlli necessari a che questo sia contenuto, controlli che possono derivare sia dai contratti nazionali che determinano delle percentuali limitate, sia dai normali controlli della Direzione Provinciale del Lavoro o di altre, insomma. La ringrazio, Pozzato, per il tempo che ci ha concesso, e speriamo che nei prossimi anni i principi ispiratori della dottrina sociale della Chiesa per la dignità del lavoro e anche per il ruolo del sindacato come nobile associazione di lavoratori per formare una comunità, per costruirla, come diceva Giovanni Paolo II, abbia insomma sempre più successo. Guardi, io dico che appunto per questo il messaggio ai giovani è: abbiano il coraggio, non abbiano timore ad associarsi e a venire in sindacato per organizzarsi, per portare le loro esigenze, i loro obiettivi, perché sono loro che in sostanza hanno la vita davanti a sé oggi. Grazie infinite. A voi, grazie. Salutiamo Pozzato e vi ricordiamo l'appuntamento di domenica 4 marzo, domenica, mattina a Villa Immacolata di Torreglia per l'incontro di spiritualità per persone impegnate nel sociale con padre Stefano Bittasi. A voi ascoltatori un grazie per essere stati con noi e per i numerosi messaggi di stima ricevute in queste nostre prime 8 settimane di vita radiofonica. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18:25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, oppure potete mandarci una mail per critiche, suggerimenti o congratulazioni a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.